siempre está a morire. Vedrai, non finirà mai. E tu con quegli occhi di ghiaccio affronterai il tuo mondo senza rimpianti. Ora sono qui a parlare con te, non mi distruggerai mai più. E questa volta i conti li faccio io e tu stai ferma lì. Ascolta, e la mia rabbia corre come un fiume per tutto il male che mi fai. E questo giorno